Lassù, lassù, lassù. Lo spettacolo finisce per A di Eugenio Sideri con Patrizia Bollini, regia Gabriele Tesauri. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Dario De Luca, co-direttore artistico della 24esima edizione di Primavera dei Teatri, festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea. A Castrovillari dal 23 maggio al 2 giugno 2024, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Noi siamo proprio negli ultimi preparativi, c'è una bella energia, c'è una bella atmosfera. Cos'è questo festival? È un festival che nasce innanzitutto in un luogo abbastanza difficile, è lontano dai grandi circuiti nazionali e internazionali. Nasce a Castrovillari, ai piedi del Pollino, in Calabria, da questo desiderio folle ormai di oltre 25 anni fa, mio e di Saverio, la Ruina, di fare portare un festival di teatro contemporaneo dalle nostre parti. Ogni volta che, insomma, negli anni 90 parlavamo di contemporaneo, bisognava naturalmente partire per andare a vedere gli artisti che si occupavano di teatro contemporaneo. E allora l'idea è stata quella di fare un festival che potesse essere un luogo anche a casa nostra. E così è stato. Qualche edizione quella è saltata per problemi di solito amministrativi e istituzionali. E quest'anno siamo arrivati alla 24esima edizione con un progetto enorme. Il festival negli anni è cresciuto, è diventato, ci sembra, un punto di riferimento per il contemporaneo in Italia. E quest'anno proprio c'è anche un salto ulteriore con quest'anteprima che facciamo, che si intitola appunto Prima, che è una piattaforma in cui partecipano professionisti provenienti da tutto il mondo, e in questi 5 giorni presenteremo tutta una parte di performance e di danza contemporanea, che è la specificità anche di questa edizione, che prova a far conoscere tutta una serie di professionisti internazionali in un luogo, insomma, dove è sempre difficile vedere del teatro. Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione e com'è stata la scelta? La scelta è sempre difficilissima, perché poi sia io, sia Saverio, sia Settimio Pisano, che adesso ci coadiuva anche nella direzione artistica, oltre ad essere stato il direttore organizzativo per anni, abbiamo l'onore e l'onere di vedere tutto. Quindi comunque vediamo tutto quello che ci arriva, anche i video, e poi andiamo in giro a vedere progetti. Lo diciamo sempre, non c'è un filo o una tematica che caratterizza le edizioni del festival, però ci sono sempre poi dei fili rossi, ma questo lo si vede quando il cartellone è finito, alle volte anche quando è finito proprio il festival, che in realtà c'erano dei piccoli fili rossi che si intrecciavano tra di loro, quindi delle tematiche che tornano, delle urgenze che gli artisti portano sul palco. E appunto quello che dicevo, dopo aver dato per 20 anni un contributo importante al rinnovamento della scena, continuiamo a fare questo lavoro sulle ultime generazioni. Naturalmente ci sono tanti amici che intanto si sono affermati a livello nazionale, però c'è anche poi uno sguardo sempre sui giovani e i giovanissimi. Quest'anno abbiamo 50 eventi in 11 giorni, ma nella parte di prosa, nella parte che va dal 28 al 2 giugno, che è la parte italiana e sulla drammaturgia contemporanea, mi viene naturalmente di parlare di una serie di prime assolute che abbiamo, che sono La Morte, ovvero Il Pranzo della Domenica, della compagnia Dan Marco Balivo, che saranno da noi in prima nazionale, amici da molti anni e che anche a Primavera dei Teatri hanno trovato una nuova linfa, una nuova riconoscibilità del percorso che hanno intrapreso insieme. C'è Pier Lorenzo Pisano con Lo Spettacolo Totale, c'è Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani con Play, sempre in prima assoluta, uno spettacolo che parte dal Me Too e ragiona proprio sui rapporti di potere e coercitivi psicologici che possono esserci tra un regista e un'attrice ad un provino. Ma c'è anche Giulia Scotti con Quello che non c'è, in anteprima assoluta, lo abbiamo visto al premio Cappelletti, abbiamo visto lo studio di 20 minuti, ci ho molto colpito e abbiamo voluto che fosse dentro il festival in anteprima assoluta. Un'altra prima è Spezzata di Fabio Pisano, che è un'altra bella attesa, attendiamo molto questo suo spettacolo. E poi ci sono tutta una serie di altri percorsi che hanno già debuttato, ma che magari ancora non hanno avuto una grossa visibilità in giro. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Noi siamo sui social con le pagine di Primavera dei Teatri, sia su Facebook che su Instagram. È il sito che ha avuto un restyling, un rebranding, a nostro avviso molto bello, molto efficace, del www.primaveradeiteatri.it, dove si trova naturalmente tutto il programma delle residenze, perché parallelamente stiamo facendo questo lavoro di residenza per i giovani artisti nazionali e internazionali che sono già in residenza qui a Castrovillari e che presenteranno degli studi dei loro percorsi artistici che stanno costruendo qui in città. E poi c'è anche tutto il programma dell'oltre. Per oltre noi intendiamo tutta una serie di attività collaterali al teatro, che dall'idea che il festival è radicato nel nostro territorio, nel contesto regionale e nazionale, e lì ci sono laboratori, c'è il laboratorio di regia fatto insieme ai raccordi e questo gruppo di registi. Faremo questo bellissimo laboratorio con la Iacozzilli, con Borghesi e con il regista degli Oye, della compagnia Oyes di Milano, ma ci saranno mostre, ci sono installazioni, i panel con la Calabria Film Commission, provare a ragionare tra attori teatrali e questo nuovo rinascimento del cinema fatto in Calabria e made in Calabria. Per cui sul sito si possono trovare tutte le sezioni e costruirsi il personale percorso all'interno del festival. 24esima edizione di Primavera dei Teatri, festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea a Castrovillari dal 23 maggio al 2 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Dario De Luca. A presto! Ciao, grazie a voi. Ciao. Con Valerio del Museo di Via Tasso per presentare La Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione, a Roma, al Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, dal 30 maggio al 1 giugno 2024. Ben trovato. Buonasera a tutti e a tutte. È una seconda edizione, giusto? È una seconda edizione. Abbiamo voluto anche quest'anno riorganizzare questo appuntamento, che appunto l'anno scorso è stato sicuramente molto ricco, è stata una prima edizione, quindi ci ha fornito sia molto entusiasmo che una serie di spunti di riflessione che quest'anno abbiamo voluto riprendere. Purtroppo ovviamente le cose che uno vorrebbe fare sono tantissime. Il Museo di Via Tasso è comunque uno spazio molto attivo, uno spazio collettivo nel vero senso della parola, perché si muove all'interno una ricerca storica che passa per gli archivi, passa per le iniziative, passa per le relazioni e le suggestioni con ricercatori, ricercatrici, studiosi, ma anche per esempio con tutto lo stimolo che offrono i ragazzi delle scuole superiori, delle medie superiori, le studentesse, gli studenti che tutti i giorni attraversano quello spazio. Quindi in qualche modo è uno spazio di ricerca, di memoria quotidiana, in cui forza ovviamente di ragionare non solo su quello che è accaduto nei mesi dell'occupazione da parte delle forze naziste e degli alleati fascisti, ma anche di tutto quel tessuto sociale che ha resistito e che ha fatto in modo che la resistenza riuscisse in qualche modo per mesi a dare del filo da torcere fino alla liberazione di Roma. Quindi tutto questo in questo anche anno di riflessione ci ha portato a costruire il programma di questa seconda edizione, che anche quest'anno ne siamo abbastanza soddisfatti. Come si articola questa tre giorni? La tre giorni si sposta su differenti tematiche e su differenti registri, avendo in questo caso forse lo sfondo è proprio Roma rispetto a quello che è successo in quei mesi. Partiamo giovedì 30 la mattina all'Istituto Centrale per i Beni Storici e Archeologici, andiamo in trasferta per la presentazione di uno spezzone inedito curato dalla Fondazione On Movies, che viene preso da un fondo a Gottani, e sono le immagini sostanzialmente delle prime ore della liberazione di Roma. È un filmato inedito che verrà proiettato, è stato curato. Il pomeriggio invece torniamo al museo e ci sarà un incontro sulla famiglia Mendola, dal titolo appunto Famiglia Mendola, l'antifascismo, la nostra scelta di vita, in cui In occasione della donazione delle opere di Giorgio Danino ci sarà un incontro con i familiari proprio per ripercorrere la vita della famiglia Amendola e quindi ovviamente delle loro relazioni per le loro scelte politiche esattamente qui a Roma. Il venerdì invece ci muoviamo dal pomeriggio con una tavola rotonda che per noi è molto importante come museo perché è un incontro, una tavola rotonda con tutta una serie di luoghi della memoria e musei storici in giro per l'Italia, quindi sono tanti, adesso non li elenco tutti, però sarà un momento importante che appunto abbiamo intitolato proprio Visitare la Storia. Proseguiremo poi con un incontro con Ascanio Celestini che intervisteremo proprio sulla memoria, il suo utilizzo all'interno delle produzioni culturali e quindi ovviamente delle sue produzioni teatrali, e la sera riproietteremo lo spezzone della Liberazione di Roma, però in questo caso sonorizzato dal gruppo Trendeville, che appunto farà questo esperimento di prendere queste immagini e musicarle, e seguirà anche il loro concerto. E poi chiudiamo il sabato 1 giugno, dove quest'anno anche riproporremo le visite speciali performative in due uscite, quindi sarà sia la mattina che il pomeriggio, sono due visite per il museo molto particolari. L'anno scorso sono state bellissime, partecipatissime. Dopodiché avremo la mattina un incontro sulla Costituzione, in cui saranno presenti il professor Azzariti e Marco da Milano, con cui discuteremo esattamente sulla nascita della Costituzione, nata dallo spirito della Resistenza e come appunto poi arriva ai giorni nostri. Nel pomeriggio invece presenteremo un libro, una collettanea, quindi unisce tantissimi autrici e autori anche molto giovani, come ricercatori, come ovviamente storici. È un libro dedicato all'ottava zona di Roma, della Resistenza, quindi del quadrante est della città, in cui sono state ricostruite appunto tutte le pratiche di resistenza e le reti clandestine. Concluderemo questo programma con un concerto organizzato insieme al Circo Gianni Bosio, in specifico con Sara Modigliani, Gabriele Modigliani, Massimo Lella e Lauro Zavanti, che è uno spettacolo che si chiama 4 giugno 1944, Orchè è liberata Roma, che è proprio uno spettacolo musicale dedicato alla liberazione di Roma. Proprio appunto come dicevo all'inizio, il leitmotiv, il filo conduttore è proprio probabilmente la città in cui viviamo tutti i giorni, e quest'anno la raccontiamo in questo modo proprio perché non ci pensiamo mai di dire che ovviamente per noi è fondamentale la ricerca storiografica, il racconto dei fatti e degli eventi storici, ma perché siano strumenti per poter anche leggere il presente e perché no, immaginare il futuro. Come aggiunta possiamo dire che, come l'anno scorso, tutte le attività del festival si svolgeranno sia all'interno del museo che subito all'esterno, per cui come l'anno scorso verrà allestita l'area proiezioni subito all'angolo tra via Tasso e via Terni. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Su Facebook e su Instagram trovate le pagine del Museo Storico della Liberazione. Il sito è www.museodellaliberazione.it e se no ci trovate direttamente a via Tasso 145. Seconda edizione della Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione, al Museo Storico della Liberazione a Roma dal 30 maggio al 1 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento a Valerio, uno dei curatori. A presto! A presto, ci vediamo al museo. Grazie a tutti e a tutti. Con Alino, uno dei curatori della collettiva di fumettisti e illustratori per la Palestina Libera, Falastin Hurra. Ben trovato. Salve, salve a tutti, buongiorno. Una mostra itinerante, ce ne parli? Sì, è una mostra che ovviamente è partita dopo i fatti di ottobre, quando abbiamo capito che la propaganda, ovviamente quella israeliana, stava prendendo piede in una certa maniera. Abbiamo sentito forte l'esigenza di fare qualcosa, perché sentivo tanta impotenza in giro, la sento ancora, rispetto a quello che si fa a cercare di fermare questo genocidio. Chiaramente io mi occupo di fumetti, non li faccio nemmeno, li organizzo, li mostro, ecco, come curatore, come operatore del mondo del fumetto e dell'industria.

Giuseppe Garibaldi e apprezzano il lavoro delle donne, l'impegno delle donne. Noi abbiamo alcune di queste infermiere come Marietta o Maria Paradisi, che era veramente una donna di una forza incredibile, di un piglio incredibile, che non guardava in faccia a nessuno, che rischiava continuamente in prima persona. E infatti poi, finita la Repubblica Romana nel 1862, sarà anche imprigionata per sospetto di cospirazione, e lì porterà anche la figlia nel carcere del Buon Pastore, e la figlia aveva 5 anni e diventerà poi l'unica giornalista italiana, insieme con Matilde Serao, che potesse veramente chiamarsi giornalista, e questa è Olga Ossani, che sarà l'ispiratrice di tanti artisti, a cominciare da D'Annunzio, che si ispirerà a lei nel piacere, per la Elena Muti del piacere, oppure addirittura degli artisti che la raffiguravano, degli scultori come Francesco Vierace, che sembra che qualsiasi immagine volesse rappresentare sempre lei prendeva a modello, e persino Salvatore Di Giacomo, nello scrivere una delle più belle canzoni napoletane, che si chiama proprio Napolitanata, prende ispirazione da lei, dal suo viso chiaro, gli occhi scuri e i capelli completamente bianchi, perché la sua caratteristica era che a 20 anni aveva i capelli completamente bianchi, e sembra che questo fosse il punto di forza della sua bellezza. Il libro Femminacce impudentissime, un saluto e un ringraziamento all'autrice Cinzia Dalmaso. A presto! Grazie a voi! Eccoci all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti, e andiamo insomma a giocare le ultime carte, no? La stagione sta pian piano finendo e pian piano ci si sposta nei festival, insomma nei nostri collegamenti un po' ce ne stiamo accorgendo che il tempo dei festival è via via arrivato. Dunque, cominciamo però dall'ultima parte della stagione invernale del teatro Tor Bella Monaca, che lascia poi insomma spazio a quella estiva di cui parleremo poi più avanti. Questa settimana in chiusura segnalo un paio di lavori, soprattutto il lavoro prodotto dal Florian Metateatro, Metus Noctis, La paura della notte, da venerdì a domenica, 31 maggio 2 giugno, scritto da Roberto Russo, diretto da Gianni De Feo, che lo interpreta insieme ad Alessandra Russo, ed è un lavoro sulla separazione tra realtà e sogno, tra realtà e incubo anche, insomma. Cosa accadrebbe se il diaframma tra le due dimensioni si assottigliasse fino a scomparire? E questo accade al protagonista di questa vicenda. Andremo a vedere in questi 3 giorni, da venerdì a domenica, cosa accadrà al teatro Tor Bella Monaca. Stessi giorni, ma un giorno in meno in realtà, venerdì 31 e sabato 1 giugno, per l'Otello, adattamento da Shakespeare, con la cura di Tiziana Visconti. Andiamo poi ancora avanti e andiamo a dedicarci insomma al Festival Inventaria, che questa settimana resta al Teatro Trastevere, dove abbiamo ben 2 appuntamenti, cioè 2 spettacoli in concorso. E il primo, firmato questa sera dalla compagnia Bilaterale, che si chiama Sfasciatura, di Salvatore Ventura con la regia di Gabriella Zito, mentre invece il 29 maggio andremo a vedere il gruppo Fondamenta Zero con Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto, con la regia di Claudia Manuelli, che sarà anche in scena insieme ad altri 2 attori. Ecco, questo per questi 2 giorni, per questa settimana di Inventaria, che poi proseguirà nei giorni successivi, e ne parleremo ancora insomma nelle settimane successive fino al 13 giugno. Si andrà avanti. Quindi, posto appunto che al Teatro Argentina sta in scena ancora fino al 2 giugno Diari d'amore con la regia di Nanni Moretti, e Diari d'amore il dittico di Natalia Ginzburg, appunto portato in scena con attori del calibro di Daria Vittorian, Valerio Binasco ed altri importanti, Alessia Giuliani, insomma ce ne sono un po'. Ed è uno spettacolo molto diverso da quello che uno si potrebbe aspettare da un intervento artistico di Nanni Moretti, uno spettacolo per quello che conosciamo insomma dai film, ma non tutti peraltro, insomma sono a vedere altre cose, l'impianto borghese, che poi è quello della Ginsburg, insomma, quindi rispettando anche un po' lo spettacolo, il testo dell'epoca, lo interpreta con un'attività molto molto legata agli attori, molto legata agli snodi della vicenda. Dunque, proseguiamo poi perché al Teatro Basilica Orizzonti della Danza Contemporanea, 29-31 maggio, questa rassegna si chiama Nel Blu, della seconda edizione curata Chiara Marianetti, e appunto nasce dalla volontà di immaginare uno spazio-tempo dedicato alla danza contemporanea, appunto al Teatro Basilica, e andiamo a vedere un po' quali saranno gli spettacoli proposti. Questo lo faremo tra un attimo, non appena appunto il foglio con gli appuntamenti sarà visibile davanti ai miei occhi, e potrei continuare ancora oltre facendo anche delle straordinarie analogie fra i miei occhi, il programma delle tre giornate prevede il 29 maggio uno spettacolo che credo che a Roma non sia arrivato ancora, ma assolutamente da non perdere per chi insomma ne conosca qualcosa, All About Adam, la regia e l'ideazione di Giuliano Scarpinato, in scena Christian Kupko, ma insomma il consulente della cultura della danza è Alessandro Sciarroni, ovvero sia un leone d'argento della Biennale di Venezia. Si tratta di un uomo come tanti, Adam, vestito di un completo nero, danza su un cubo di ceneri e macerie. Sono forse le sue, quelle di chi lo ha preceduto e si è estinto, quelle di una civiltà? Non lo sappiamo. Non sappiamo nulla di come sia capitato in questo pezzo di crosta terrestre, e quest'uomo sta cercando una direzione, un orientamento, e chissà, magari attraverso il teatro e la sua danza lo troverà. Il 30 maggio invece andremo a vedere Olimpia Fortuni, che è interprete e ideatrice e coreografa di questo lavoro firmato Sosta Palmizzi, che si chiama Soggetto Senza Titolo, quindi non si chiama o si chiama Soggetto Senza Titolo, insomma bisogna capire. Il viaggio del corpo alla ricerca dell'uomo, e cerca di entrare insomma in un flusso di coscienza traslato in un corpo che muta la sua materia in tre movimenti, passato, presente e futuro, e dove c'è un rapporto insomma di interconnessione tra il reale e l'irreale. Questo è quello che Olimpia Fortuni si porterà sul palco del Teatro Basilica il 30 maggio. Si chiuderà il 31 con due lavori, due studi firmati da Claudio Larena, Quasi Caduta e Calcinacci. Claudio Larena insieme a Giulia Canna, Felisa Quadrana, sarà appunto sulla scena con questi due studi. È un progetto nuovo, insomma, nato nel 2022, insomma, è molto, molto recente come gruppo. Quasi Caduta entra in contatto con questo oggetto dell'altalena, che insomma è semplicissimo ma esplicita un po' la condizione umana talvolta, mentre Calcinacci parla del rapporto tra atto e stasi in qualche modo, con appunto la relazione al momento in cui decidiamo di dare atto al movimento nostro o altrui, insomma, noi incitiamo qualcuno a fare una determinata azione, stiamo in qualche modo compiendo un'azione sull'universo, no? E quindi in qualche modo Calcinacci di questo andrà a parlare. E per quanto riguarda dunque la rassegna di danza al Teatro Basilica, direi che abbiamo detto tutto ciò che serve, invitando appunto al Teatro Basilica dal 29 al 31 maggio, con tre serate importanti. Proseguiamo perché al Teatro India due appuntamenti firmati Odin Theatret. Il 28 maggio, questa sera, va in scena La Casa del Sordo, Capriccio su Goya, con firma della regia di Eugenio Barba, nella casa di un sordo a Bordeaux. Il sordo però è Francisco Goya, l'ultima notte della sua vita. La sua amante, per più di 30 anni, scatena la sua fantasia e i suoi ricordi, e uno dei più importanti pittori incisori spagnoli del XVIII-XIX secolo, morì poi in esilio a Bordeaux, in Francia, nel giro di poche ore, e quindi andiamo a fotografare un po' quell'ultima notte al Teatro India con l'Odin di Eugenio Barba. Stessa compagnia per questo Compassione che il 30 maggio sarà appunto al Teatro India, tre panorami di speranza a primavera. Si tratta di appunto questo lavoro firmato sempre Odin Theatret di Eugenio Barba e Giulia Varley. Sono tre panorami. Nel primo, il monaco Yazid osserva le famiglie che fuggono dalla Siria, dai villaggi della Siria in guerra. Nel secondo panorama, una profuga cecena attraversa città distrutte e arriva al confine col Paese delle Meraviglie. Nel terzo panorama, Tiresia, cieco e veggente, il giorno dopo la battaglia seppellisce Antigone e la risuscita come mito. Quindi ecco, molto chiaro evidentemente il rapporto tra i tre panorami di speranza a primavera. Compassione il 30 maggio al Teatro India. E poi non mi rimane altro che portare un po' di attenzione sul teatro dei più piccoli, perché questa settimana, il 30 maggio, comincia fino al 16 giugno il Torpigno World Kids Festival, che è appunto al Teatro Fortezza Est, che appunto per il quartiere lo organizza, presenta un po' di lavori. Questa settimana andremo a vedere due lavori. Il primo, 30 e 31 maggio, La Lirica per Tutti, della compagnia Tre Barba, che propongono un lavoro sull'opera lirica, abbiamo parlato spesso, in chiave pop, insomma, cercando di prendere appunto le più belle scene dell'opera, della tradizione lirica, portandole appunto nel nostro tempo. Invece 1 e 2 giugno andremo a vedere 20.000 mondi sotto al mare, un racconto veramente ispirato al romanzo quasi omonimo di Jules Verne, che vuole insomma sensibilizzare alla cura del mare, alla consapevolezza su questa risorsa inestimabile per preservarla. In scena ci saranno Alessandro Di Somma, Leonora Turco, Giuseppe Mortelliti, Gioele Rotini. E per i prossimi appuntamenti ne parleremo le settimane successive, e con questo direi che abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.